112. Crostini di beccaccia. Sbuzzate le beccacce e levatene le interiora, gettando via soltanto la estremità del budello che confina con l'ano. Unite alle medesime i ventrigli senza vuotarli, qualche foglia di prezzemolo e la polpa di 2 acciughe per ogni 3 interiora. Sale non occorre. Tritate il tutto ben fine con la lunetta, poi mettetelo al fuoco con un pezzetto di burro e una presa di pepe, bagnandolo con sugo di carne. Spalmate con questo composto fettine di pane a forma gentile, arrostite appena, e mandate questi crostini in tavola accompagnati dalle beccacce che avrete cotto arrosto con qualche ciocchettina di salvia, e fasciate con una fetta sottile di lardone.